Da lunedì 12 dicembre è disponibile in streaming su OpenDDB, la prima piattaforma di opere di cinema indipendente, Il richiamo degli scomparsi di Massimo Zamboni. Il film concerto, un'orazione con orchestra sugli artisti di Reggio Emilia. È qui con noi per parlarne Massimo Zamboni, a cui do il benvenuto su Radio Città Fucico. Ecco, buona giornata a tutti, sono ben felice di parlare di questo progetto che mi sta molto a cuore. Raccontaci di questo film concerto, Il richiamo degli scomparsi. Quali sono i temi affrontati da questa opera? Sono temi piuttosto universali, diciamo, e allo stesso tempo molto terrestri, nel senso che io vivo a Reggio Emilia, una provincia molto ricca di cultura, così come Bologna, così come l'Emilia Romagna in genere. Sento l'importanza di questa cultura che sta alle nostre spalle, che in qualche modo ha costituito l'immaginario emiliano, perché tutto il Novecento è stato un secolo florido, ricco, molto, molto pieno di presenze importanti. Se dovessi pensare alla provincia di Reggio Emilia, mi viene in mente Ghirri, Zavattini, Daolio, Ligabue, Ghizzardi, Tirelli, quanti altri. Ho pensato di creare un ponte tra chi è oggi cittadino di queste province e di chi non c'è più, di chi lo è stato, tante volte con molto affetto, tante volte con molto astio verso la terra di origine, con molta importanza. E quindi ho dedicato un buon periodo di tempo a girare per cimiteri in tutta la provincia di Reggio Emilia per rendere un omaggio anche fisico a chi era sepolto lì, agli artisti del Novecento reggiani che erano seppelliti in terra reggiana. Poi ho pensato di farne uno spettacolo, cioè di riportare ai cittadini di oggi non soltanto la memoria ma proprio la presenza fisica anche in negativo, no? Anche in estinzione, perché io credo che siano molto presenti nel nostro immaginario, nella nostra vita reale, concreta, nella nostra impossibilità di fare cultura, tutte queste presenze che hanno comunque costituito questa regione, che l'hanno attraversata, che l'hanno pensata, che l'hanno cantata o disegnata o filmata, fotografata in mille modi. E quindi abbiamo costruito questo grande spettacolo teatrale musicale con una cinquantina di persone presenti sul palco a Reggio Emilia al Teatro Valli alla fine del 2019, e adesso questo spettacolo unico, perché non era possibile replicarlo, è diventato un film. Il richiamo degli scomparsi nasce come opera teatrale, poi è diventato un film concerto. Perché l'esigenza di mutare la sua forma originale? Ma perché credo che siamo riusciti a trovare una forma filmata molto fedele all'originale. Sempre difficile trasporre uno spettacolo musicale o teatrale in un'opera filmata, invece credo che abbiamo trovato la cifra giusta per farlo. E poi perché c'è stata una grandissima mole di lavoro, è durato 6, 7, 8 mesi la preparazione di questo spettacolo, e pensare di farlo in data unica, anche se il teatro era esaurito, abbiamo dovuto lasciare fuori tantissima gente, ma era un peccato, no? Un peccato perché è stato un dispendio di forze, di risorse, di energie, di pensieri che io credo meriti di essere portato avanti. E quindi questa uscita in streaming ci dà questa opportunità, dà l'opportunità a quelli che non hanno potuto vederla allora di vedere di che cosa si tratta, perché in fin dei conti questo non sono le mie canzoni, questo è, io credo che sia proprio l'anima dell'Emilia che si espone su un palcoscenico, e quindi l'idea di poterlo condividere mi è sembrata assolutamente necessaria. Perché la scelta di collaborare con OpenDDB, che ricordiamo essere la prima piattaforma di opere di cinema indipendente? Ma perché ci conosciamo, perché ho molta fiducia nella loro capacità di lavorare, perché mi sembra che abbiano il pubblico e i mezzi molto adatti a questo tipo di film, che non è una produzione hollywoodiana, ha bisogno di affetto, ha bisogno di persone interessate, di persone intelligenti, attente, e quindi è stata una scelta abbastanza immediata. Chi sono gli artisti che hanno partecipato al progetto e come sono nate le collaborazioni? Beh, gli artisti sono artisti amici che sapevo interessati a questi temi, li sentivo molto, molto legati: Vasco Brondi, Nada, Ginevra Di Marco, Muru Butu, Aldo Nove, i musicisti che suonano abitualmente con me, e poi un gruppo di danza di Reggio Emilia, una ventina di chitarristi elettrici arruolati per l'occasione, con la regia di Fabio Kerstic, visual di Pier Giorgio Casotti. Insomma, c'è stato un grande gruppo di lavoro. Sul palco eravamo in 55, una cosa del genere, con una scenografia molto, molto curata, molto attenta, una regia molto attenta. Credo che da parte di tutti sia stata proprio una serata molto importante. Massimo, io ti ringrazio e invito tutti e tutti a vedere Il richiamo degli scomparsi su OpenDDB. Io spero che verrà seguito il tuo richiamo. Vi ringrazio.